Puoi svegliarti qui all'alba di un giorno normale, esposta ai venti della vita, si rischia di perdere il sole. Dividere con me mille occasioni e paure, con la certezza che se resterai il tempo avrà i nostri colori. Tra via di fuga e corso ostacoli, le conseguenze e i nostri sintomi. A un metro da qui, a un metro da io e te, la soluzione. Nessuna verità, nessuna possibilità. Quando brucia consumiamo in fretta, o è la vita che consuma noi. Tra un destino che non scegli e una vita che non spendi, c'è solo un equilibrio che resta, che basta. Io te la soluzione. Qui quel modo di farti aspettare, desiderare un'altra vita non ti rende questa speciale. E se per caso non decidi tu, e se un'altra notte ti svegli in questo mondo a farti compagnia, comincia tu, finisco io. Nessuna verità, consumiamo in fretta, o è la vita che consuma noi. Tra un destino che non scegli e una vita che non spendi, c'è solo un equilibrio che resta, che basta. Io e te la soluzione. Io e te la soluzione. In modo per difenderti, in ogni forma e nei suoi angoli, ovunque sarà, comunque sia, io e te la soluzione.